America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Beh, intanto cominciamo con la grande tempesta di neve che si è abbattuta nel nord-est. Per ora qui a New York abbiamo avuto soltanto una coda, abbiamo avuto una specie di grandine, di pioggia ghiacciata. La temperatura questa mattina era addirittura a meno 9, quindi è arrivato il freddo, però oggi diciamo c'è il sole almeno qui, mentre invece nell'area di Chicago, dell'Illinois, ci sono state di nuovo precipitazioni fino a 50 centimetri di neve, ed è la quarta volta, quindi continua a accumularsi questa neve con delle immagini, devo dirvi, alquanto sconvolgenti. C'era per esempio una macchina che era infilzata nella neve a muso in giù, quindi in modo verticale. Non so come sia potuto accadere. C'era una scena in diretta televisiva, un reporter che stava per strada, in questa strada ghiacciata, stava parlando in diretta e a un certo punto si sposta perché si vede una macchina che arriva dalla parte opposta. Dice: qui è abbastanza pericoloso, è meglio spostarsi perché le macchine possono slittare. In quel preciso istante viene investito da una macchina e si vede lui che scompare dalla telecamera, viene investito e trascinato più in là. Abbiamo saputo poi che non si è fatto troppo male. Comunque sono immagini chiaramente che mettono la popolazione in allarme, bloccano strade, creano sicuramente dei danni all'economia. Bene, questo per ciò che riguarda la tempesta di neve, ma veniamo alla tempesta politica che continua. Sentiamo qual è stato il messaggio di Robert Gibbs, un po' sulla falsariga di quello che aveva dato il presidente Barack Obama il giorno prima. And parties being involved in this process as we move toward free and fair elections. But that process must begin now. Elezioni libere, elezioni eque, dice Gibbs. Soprattutto sottolinea: il passaggio per una riforma democratica deve avvenire ora, e sottolinea nel tono della voce l'urgenza. Riflette il messaggio del presidente Barack Obama del giorno prima. Ricordiamolo, Obama ha seguito molto da vicino questa crisi, la crisi più grave della sua amministrazione, della sua presidenza, ed è riuscito a cavalcare l'onda della crisi nel modo migliore, secondo me, perché ha dato una grossa credibilità ai militari, i quali si sono astenuti dall'intervenire e hanno così assunto un ruolo un po' da cuscinetto tra i dimostranti per strada ed il governo. È riuscito il presidente americano a convincere Hosni Mubarak a fare quella dichiarazione in cui annunciava che non si sarebbe ripresentato alle elezioni che dovrebbero tenersi in settembre. Obama però vuole che il processo sia accelerato. Un punto molto molto interessante, secondo me. Fino a qualche settimana fa, una decina di giorni fa, vi raccontavo, proprio in occasione del viaggio del presidente cinese Hu Jintao, come l'America sembrava in crisi, come la potenza cinese si preparava a scavalcare, dal punto di vista economico quantomeno, la potenza americana. Molti stanno parlando in questi giorni, parlavano le settimane passate, di declino degli Stati Uniti d'America. Ebbene, quando c'è una crisi delle proporzioni di quella che abbiamo osservato in Egitto, ecco che l'America diventa il primo interlocutore. L'Europa è stata praticamente inesistente, la Russia si è astenuta, la Cina non si interessa di quel che succede in Medio Oriente. Ebbene, il player vero torna ad essere Washington, torna ad essere l'America. Quindi in un momento di questo genere si vede poi dove sta la forza vera di un paese. Però c'è un però, e cioè che alle parole di Gibbs, parole che appunto chiedevano, invocavano la calma e il passaggio alla democrazia in tempi rapidi, a queste parole c'è stata questa risposta. Looks like the pro-Mubarak crowd has sort of gathered around the Egyptian Museum, which is at one of the entrances to Liberation Square. The military has this entire area cordoned off, so they wanted to keep the two sides separate, they'd be able to, but at this point it looks like the military is just kind of standing by. Mubarak yes, è stata l'invocazione della folla, e per la prima volta abbiamo sentito questi dimostranti che sono favorevoli a Mubarak. Dunque sono stati scatenati per le strade e lì ci sono stati i tafferugli e gli scontri. In mezzo a questi scontri avete sentito il reportage di Anderson Cooper, giornalista della CNN, che si è trovato in mezzo a questi tafferugli.